Io vorrei con lei, se possibile, andare un attimo alle radici di quello che stiamo vedendo e che abbiamo visto nei giorni scorsi, di quello che abbiamo visto a Firenze, di quello anche, se vogliamo, che abbiamo visto a Torino. Lei dice in sostanza che c'è un momento preciso nella storia recente di questo paese nel quale cade il tabù del razzismo. Ci può spiegare? Nell'autunno del 2007 a Roma accade un fatto particolarmente tragico, l'omicidio efferato di Giovanna Reggiani, a opera di uno straniero, un rumeno, che dopo averla stuprata la uccide. Scatta una comprensibile mobilitazione emotiva. Il fatto è così crudele, le circostanze così tese, che in questa situazione si diffonde un clima di ostilità molto forte, per certi versi aggressiva, non contro chi è responsabile di quel delitto, ma contro la comunità nazionale alla quale l'autore di quel delitto appartiene, cioè contro i rumeni. E mentre fino ad allora vigeva una sorta di interdizione morale, appunto un tabù che impediva alle persone per bene di formulare equazioni false e pericolose come romeno uguale stupratore, che è l'equivalente di napoletano uguale camorrista, di italiano uguale mafioso, come per molti anni e decenni è stato detto per esempio negli Stati Uniti, ecco, questa equazione scellerata e pericolosa in quella situazione emotiva successiva all'omicidio di Giovanna Reggiani ha avuto corso. E mi scusi, ha avuto corso anche sulla scorta di qualcuno che politicamente l'ha cavalcato, non solamente a destra in realtà. Decisamente sì, perché un conto è che quell'equazione circoli nel discorso corrente, nella comunicazione privata, nelle ansie, nelle preoccupazioni, nella xenofobia delle persone che faticano nel rapporto con gli stranieri. Un conto è che quell'equazione finisca nella sfera pubblica e diventi, come è diventato in quella circostanza, materia di campagna elettorale. Nel 2008 ci furono sia le elezioni comunali a Roma sia le elezioni politiche e in quelle campagne elettorali la paura dello straniero, l'ostilità verso il romeno a partire da quell'episodio divenne proprio uno strumento di lotta politica. La campagna elettorale per le comunali di Roma fu giocata tutta, o comunque in parte rilevante, sulla situazione della sicurezza collettiva, sul pericolo rappresentato dagli stranieri, su questioni di ordine pubblico. Tutte questioni importanti, ma sicuramente molto meno significative di altre che riguardano l'amministrazione della città. Allora, quella fu una risorsa politica, dicevo, in primo luogo giocata dalla destra. Il minimo che si può dire è che la sinistra non ebbe la forza e l'intelligenza di contrastarla. Ci sono ambienti poi nei quali tutto questo fermenta. Decisamente sì, qui bisogna essere lucidi e riflessivi, non si può scherzare col fuoco, davvero non si può scherzare col fuoco. E mentre uso questo termine per associazione elementare, mi viene in mente che appena pochi giorni fa il fuoco fu appiccato a un campo Roma-Torino. Ma ecco il punto: se noi operiamo nei nostri discorsi pubblici, nell'informazione giornalistica, nella battaglia politica, indicando il rom o lo straniero come il nemico, è inevitabile che poi qualcuno, che può essere anche uno psicopatico, come probabilmente è l'autore dell'omicidio di Firenze, da quel discorso pubblico di ostilità verso lo straniero ricavi legittimazione per impugnare un'arma e fare fuoco. Se noi riteniamo che la fonte di tutti i mali sociali di una città sia la presenza di campi rom, diventa fatale che una giovane di 16 anni, per giustificare la sua prima esperienza sessuale, si trovi automatico puntare il dito contro coloro che abitano quel campo rom e che, come lei ha riferito, puzzano. Ecco, e questo è il passaggio cruciale. E noi dobbiamo tener conto che quando gli umori, le ansie, le preoccupazioni vengono non solo legittimate sul piano politico, ma incentivate, ma galvanizzate, ma tradotte in strumento di lotta politica, a quel punto c'è un cortocircuito dove le persone più fragili cascano rovinosamente e la loro ansia si trasforma in odio, la loro preoccupazione diventa aggressività. Qui sta il nodo fondamentale. Se noi per mesi abbiamo parlato di politica dei respingimenti nei confronti dei disgraziati che attraversavano il Mediterraneo e il termine politica veniva associato alla parola respingimento, cioè al rifiuto, alla negazione dei diritti, all'allontanamento dai nostri confini, è ovvio che poi quelle persone respinte vengono vissute come nemici, come minaccia sociale, come attentato alla nostra tranquillità. Voglio ricordare un dato: il silenzio sul quale dato è già una prova di quanto sto dicendo. Dal 1 gennaio 2011 a oggi, in quel tratto di Mediterraneo che inizia un centimetro dopo i confini del nostro perimetro di territorio nazionale, nel Mediterraneo, nel tratto di mare tra l'Africa e l'Italia, dal 1 gennaio del 2011 a oggi, sono morte 2160 persone, cioè quasi 7 persone al giorno, che non ci hanno indotto né a versare una lacrima, né a operare una riflessione, né a cambiare la nostra politica sull'immigrazione. Bene, questo dato mi sembra che sia talmente inequivocabile da non poter essere discusso. Le chiedo, non è una lettura troppo italiana di queste vicende? Perché ci sono anche altri elementi che poi in queste ore vengono messi in evidenza, viene ricollegato il tutto in parte alla vicenda di Oslo, ossia l'idea che tutto questo affondi le radici in una paura di fronte ad un mondo che si fatica a capire, ad una crisi che colpisce duro, ad una globalizzazione che colpisce altrettanto duramente, ed è una risposta tra virgolette semplice e che può portare a questi estremi. Allora, certamente la mia è un'analisi italiana, perché c'è una specificità italiana, ma questa specificità certamente si inserisce in un discorso generale che riguarda l'Europa e tutti i paesi occidentali. Nella strage di Oslo e nei fatti di Firenze c'è un elemento comune: l'attore del delitto è, in un caso come nell'altro, qualcuno ossessionato dalla paura dell'invasione, cioè qualcuno che non si rassegna al fatto che il mondo che abitiamo è un mondo attraversato da flussi migratori, è un mondo dove le genti si spostano, dove le persone passano da un paese all'altro e da un continente all'altro, e dove tutto ciò non è la conseguenza dell'avidità di qualche popolo e della fragilità di chi non vi si oppone, ma è appunto uno degli effetti di quella che chiamiamo globalizzazione, cioè il mutamento che conosce il nostro pianeta. In questo mutamento è ovvio che personalità fragili individualmente e fasce sociali deboli avvertano smarrimento. Il compito della politica è evitare con tutta l'energia e l'intelligenza che questo smarrimento si trasformi in intolleranza prima, aggressività dopo. Quando noi parliamo della fatica che una parte del popolo italiano fa a accettare la convivenza con gli stranieri, stiamo parlando di un dato oggettivo. Da me mai è venuto fuori un'accusa di razzismo generico, indistinto verso quei settori di popolazione che esprimono sentimenti di ostilità. Da sempre mi preoccupo di capire le radici, ma la politica ha la responsabilità di dare a quell'angoscia collettiva risposte razionali e intelligenti, a partire dalla conoscenza dei dati di fatto, a partire per esempio dalla possibilità di far sapere ai cittadini italiani che circa il 10% del PIL del nostro paese è prodotto da lavoratori stranieri, qui residenti e qui integrati. Allora, quanti italiani sanno che il 10% della ricchezza nazionale dipende dal lavoro di coloro che molti avvertono ancora come nemici? Quanti sanno che la popolazione senegalese, colpita ieri da questo delitto, è tra le più antiche come presenza nel nostro paese, tra le più integrate, ci ha dato in italiano autentici gioielli di letteratura, in italiano, scritte da giovani scrittori senegalesi. Ecco, quanti sanno questo? Quanti sanno che la nostra condizione di cittadini italiani deve molto al lavoro delle badanti, al lavoro delle babysitter? Ma quanti soprattutto, anche sapendo tutto ciò, se lo dimenticano rispetto a una condizione complessiva di ansia e di angoscia?